24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Tu paghi! Egli paga! Noi paghiamo! Voi pagate! E si riscuotono! Pietà! Pietà! Ma che pietà! Pietà! Noi funzionari del fisco siamo inflessibili! Tasse! Tasse! Bellissime, adorabili tasse! Ragioniere, quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. Catasso, non se ne pagano, caccio caccio! La Costina ha dichiarato che quando i tributi e i balzelli sono troppo gravosi, non è peccato di non pagarlo. Lei ha paura delle tasse? In cento svolgiamo il lavoro di mille persone, quindi è umano che siamo un po' nervosi. È umano che siamo un po' nervosi? È umano. Adesso il suo caso contribuisce ad aumentare questo nervosismo. Contribuisce? Contribuisce. E allora, se contribuisce, è un contribuente. E se è un contribuente, deve pagare le tasse per banco. Con la stabilità riduciamo 18 miliardi di euro le tasse, cosa che in tutti questi anni hanno sempre detto tutti, peccato non l'abbia mai fatto nessuno. È la dichiarazione fatta da Matteo Renzi il 26 ottobre dal palco della Leopolda. Proviamo a verificare se è vero oppure non è vero che i tagli alle tasse sono di 18 miliardi di euro. E proviamo a farlo con il fact-checking che abbiamo realizzato con i nostri collaboratori di Pagella Politica. Dunque, il Premier Renzi dice che con la legge di stabilità ha ridotto di 18 miliardi di euro le tasse. Sentiamolo di nuovo. Con la stabilità riduciamo 18 miliardi di euro le tasse, cosa che in tutti questi anni hanno sempre detto tutti, peccato non l'abbia mai fatto nessuno. Dunque, questo dato, cioè i 18 miliardi di tasse in meno, provengono dalla slide che il Presidente aveva presentato alla stampa il 16 ottobre. Come sappiamo, della legge di stabilità non c'è ancora un testo definitivo, ma al momento non sono stati modificati gli aspetti fiscali. La dichiarazione di Renzi allora non è vera, perché in realtà il taglio netto delle tasse è di 13,7 miliardi. Perché? Perché è vero che la legge di stabilità prevede 18 miliardi di tasse in meno, ma dall'altra parte Renzi non ha detto che sono previsti 4,6 miliardi di euro di nuove tasse in questa stessa legge di stabilità. Nuove tasse che provengono dalle rendite finanziarie e dalle slot machine. Quindi alla fine il taglio c'è, ma è di 13,7 miliardi di euro. Ecco, professor Antonio Uricchio, direttore dell'Università di Studi di Bari Aldo Moro, esperto di diritto tributario. Tassare le rendite finanziarie fino al 26% darà i risultati sperati? Darà sicuramente un maggiore gettito. Crea inevitabilmente problemi anche di competizione rispetto ad altri ordinamenti, però è una misura necessaria anche alla luce della riduzione dell'imposizione sul costo del lavoro. Sul ecco, l'aumento delle tasse sui fondi pensioni sarà una botta per i pensionati? Non immediatamente, perché l'effetto potrà apprezzarsi soprattutto fra qualche anno. Senta, ma l'opzione del TFR in busta paga è un'altra tassa o è solo un'opzione? No, no, è un regime di carattere opzionale che non aggrava il regime fiscale. Senta, ma coi 5 miliardi di riduzione dell'IRAP per le imprese, l'ossigeno per l'economia reale è sufficiente? È una misura, credo, assolutamente necessaria, perché l'imposizione sul lavoro è tra le più alte d'Europa e questa misura alleggerisce, anche se limitatamente appunto alle imprese, quindi non a tutto il costo del lavoro, tutto il mercato del lavoro. Certo, ma la scelta di prevedere un forfè per chi rientra nel regime dei minimi con la partita IVA è una novità, è così? No, non è una novità, anzi una normativa, quella introdotta, che assorbe e riprende vecchie norme, semplifica i regimi di carattere opzionale per i cosiddetti contribuenti minimi. Quindi non c'è niente di nuovo in questo campo? Sono una rimodulazione e una semplificazione. Sì. Senta, professore, un'ultima cosa. In questa legge di stabilità, quali sono le scelte realmente innovative tra incentivi e riduzione della pressione fiscale? Io ritengo sicuramente opportuna l'introduzione degli incentivi per l'innovazione e il cosiddetto regime dei patent box, che è stato previsto in altri paesi europei e che può avere soprattutto un effetto di migliorare la competitività del nostro paese sulla proprietà industriale, sui brevetti, sulla crescita competitiva. E questa è la parte innovativa? Sì, è una parte che non avevamo e che oggi viene ampiamente ripresa dalla legge di stabilità. Grazie professore. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. 3 2 1 0. Veniva lanciato con un razzo R7 lo Sputnik 1, il primo satellite della storia ad andare in orbita intorno alla Terra. Il 12 aprile del 1961, un pilota dell'aviazione sovietica, Yuri Gagarin, allora 27enne, divenne il primo uomo della storia a volare nello spazio. Qui Houston, potete ripetere. Houston, abbiamo un problema. Ha toccato! No, non ha toccato. No, Ruggero, se abbiamo ascoltato bene le comunicazioni fino adesso, da 2,5 metri non si passa dietro. Luca Parmitano, appena arrivato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Luca resterà a bordo dell'ISS 6 mesi per la missione Volare, la prima di lunga durata affidata dalla NASA all'Agenzia Spaziale Italiana. A bordo della Cassini-Huygens si trovano due potenti strumenti progettati per sconfiggere lo strato di foschia. Uno è il radar della Cassini, che scansiona un quarto della Luna e trasmetterà le prime immagini accurate della superficie di Titano. Il secondo è la sonda europea Huygens. Il prossimo 12 novembre, per la prima volta nella storia, una sonda spaziale si poserà sulla superficie di una cometa. Si tratta della missione europea Rosetta. Alessandro Ovi, editore e direttore dell'edizione italiana di Technology Review, la rivista dell'MIT per l'innovazione. Ecco, perché è importante studiare una cometa? Ma importante studiare una cometa è per un motivo molto semplice che sfugge ai più quando la vedono nel cielo, che la cometa è una oggetto spaziale che è nato nel momento in cui è nato il sistema solare, poi è andato lontano vivendo il più del tempo in ambienti molto freddi e quindi con una enorme capacità di conservazione della sua natura, delle sue qualità, e ogni tanto ricompare dentro il sistema solare. Andarsi a posare su una cometa vuol dire avere la possibilità di osservare una specie di relitto di quello che è stato il momento della creazione del sistema solare, e se si trovano su questo relitto certi tipi di molecole, certi tipi di sostanze, si raccolgono informazioni estremamente importanti non solo sulla natura del sistema solare in quanto insieme di pianeti e satelliti, ma anche per la nascita della vita, per esempio. C'è grande curiosità per vedere se si trovano certe molecole, certo, che contengono carbonio, idrogeno, eccetera. Quindi gli scienziati sono molto interessati. La missione Rosetta prende il nome dalla stella che fornì agli archeologi la chiave per decifrare i geroglifici egiziani. Ecco, quindi in qualche modo questa sonda potrebbe aiutarci a svelare i misteri della nascita del sistema solare, non solo della vita. Esattamente, esattamente. E l'importanza della missione Rosetta è che va a posarsi sulla cometa, speriamo, permette di fare qualcosa tipo scavare con uno speciale strumento al di sotto della superficie della cometa, quindi andare veramente all'anima all'interno della materia, ecco, iniziale. La missione Rosetta è sviluppata dall'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA. In che cosa consiste la politica europea dello spazio esattamente? Ma dunque, la politica europea dello spazio è una politica che ha alcuni aspetti molto importanti, limitati solo dalla non grande disponibilità di risorse, come la NASA ad esempio, è quella della esplorazione di satelliti del sistema solare, di pianeti del sistema solare come per esempio Marte o Venere, di missioni di lungo raggio attorno al di fuori, quello che si dice lo spazio profondo, e poi di qualcosa di molto più vicino che è l'osservazione della Terra. Questa missione della cometa è una cosa che è una via di mezzo tra la missione che va a esplorare i pianeti e i satelliti e la missione che va a esplorare lo spazio profondo. Ecco, ma qual è la lingua dello spazio? Ma non so quale sia la lingua dello spazio. Certamente la lingua dello spazio è il silenzio, credo. Il problema è ascoltare delle cose che sono sotto il silenzio, quindi i segnali radio, quindi tutto quello che può essere successo tantissimo tempo fa e che ci arriva oggi. per darle una piccola idea, quando noi dialoghiamo con Rosetta per darle dei comandi, dobbiamo tener conto che il nostro comando arriva 28-30 minuti dopo, sì, quindi in realtà non si manda un comando, si manda un programma che verrà caricato da Rosetta sul suo computer e poi al momento opportuno lo fa diventare un comando. Quindi, ecco, dottor Rovi, ma sì, qual è il contributo italiano alla missione? Ma il contributo italiano è di due tipi. Il primo tipo è stato nella costruzione di Rosetta e del suo lander, cioè quella sonda che lei lascerà cadere sulla cometa e che ha il nome di File, anche quello un nome legato alla lettura dei geroglifici, perché File è un'isola del Nilo dove c'è un obelisco, è stato trovato, che aveva delle scritte in geroglifico egizio e in greco. Allora, il contributo italiano è stato mettere degli strumenti molto importanti su Rosetta, cioè sul cosiddetto orbiter, e mettere uno strumento importantissimo su questo lander, che è un trapano, praticamente un trapano realizzato al Politecnico di Milano con il supporto. E quindi quello è il nostro contributo tecnologico. Poi c'è un enorme contributo di aiuto alla navigazione che viene fornito. Vabbè, poi ci saranno le persone che sentiremo tra poco. E poi le persone che sono i piloti, e i due maggiori piloti di questa impresa sono due signori italiani di grandissimo livello. Paolo Ferri, Andrea Accomazzo, che sentiremo tra poco. Che lei sentirà tra poco. Metri, un metro in basso, tre in avanti. 60 secondi. Luci in funzione, avanti. Quattro avanti, andiamo un po' a destra. Solleviamo polvere, 23 metri. Luce di contatto. Ok, motori fermi. Sono certo che vi rendete conto del gravissimo potenziale di shock culturale e di disorientamento sociale insito nell'attuale situazione. Stai parlando della missione Rosetta? 800 24 00 24, 349 238 6666 per gli sms. Ecco, a guidare la missione dal Centro Europeo per l'Operazione Spaziale di Darmstadt in Germania ci sono due italiani: Paolo Ferri, direttore di tutte le missioni ESA, e Andrea Accomazzo, responsabile dell'operazione di Rosetta. Buongiorno. Ecco, dottor Ferri, il viaggio di Rosetta è iniziato il 2 marzo del 2004, 10 anni nello spazio, milioni di chilometri percorsi. Ma perché Rosetta ha dovuto viaggiare tanto per raggiungere la sua destinazione? Il viaggio è stato così lungo perché Rosetta non doveva semplicemente passare nelle vicinanze di una cometa, ma doveva raggiungerla e starci nelle vicinanze. Per questo motivo ha dovuto accelerare. E per accelerare non bastavano i razzi che abbiamo a terra, abbiamo dovuto fare 5 volte dei giri intorno al Sole e 4 volte incontrare un pianeta, 3 volte la Terra, 1 volta Marte, che ci ha dato un'accelerazione grazie alla sua attrazione gravitazionale. Perché il problema è che passare vicino ai pianeti serve per riprendere energia e velocità. Esattamente, adesso alla fine, dopo 10 anni, avevamo la velocità giusta per avvicinarci alla cometa e restare. Praticamente è come dire 10 anni di lancio, 10 anni per il lancio quasi, per essere lanciati nel avere l'energia sufficiente. Esattamente, esattamente. Ma quali sono state le maggiori difficoltà della missione? Beh, la grande durata della missione ovviamente è già una difficoltà, tutti i sistemi devono essere mantenuti in perfetta efficienza per una lunghissima durata e non succede così spesso nelle missioni spaziali che durano così tanto. Poi ovviamente tutte queste fasi critiche, i passaggi dai pianeti, siamo passati 2 volte dagli asteroidi e infine per 2 anni e mezzo eravamo così lontani dal Sole che abbiamo dovuto spegnere quasi tutti i sistemi, lasciare Rosetta da sola nello spazio profondo e riaccenderla dopo 2 anni e mezzo, una cosa che non è mai stata fatta prima di una fase importante come... È una grande emozione, immagino, dopo 2 anni e mezzo provare a riaccendere Rosetta. Assolutamente. Ci credevate? Assolutamente, i ragazzi qui hanno fatto tutto il lavoro di preparazione, perché questo non toglie che quando si aspetta la chiamata e la chiamata tarda anche un minuto ad arrivare si è nervosi, però eravamo sicuri che avrebbe funzionato. Senta, dottor Accomazzo, qualunque informazione o impulso, se ho capito bene, impiega oltre 20 minuti per raggiungere la sonda e poi viceversa per tornare indietro la risposta. Come si pilota in concreto un satellite a 400 milioni di chilometri di distanza? Il segnale che noi trasmettiamo a Rosetta impiega esattamente questi tempi, sono variabili in funzione della distanza di Rosetta dalla Terra. Si programma prima tutto, si pianifica a terra, si pianificano tutte le operazioni che si intendono eseguire con la sonda e questo viene programmato nei computer di bordo della sonda. Le singole istruzioni eseguono ai tempi che noi abbiamo indicato. Ma dottor Accomazzo, ma come si diventa un pilota dello spazio, non nello spazio? È una carriera lunga, nel mio caso è cominciata essendo pilota di aereo, poi sono venuto... Vabbè, ma qui lei sta seduto, guida da seduto, diciamo. Guido da seduto, bisogna... Davanti a un computer, non in volo. Assolutamente. E allora il cambio di formazione in cosa è consistito? Beh, si tratta di imparare molto bene come funziona il satellite, quindi come funziona la sonda, imparare tutti i sottosistemi, e è una questione anche di atteggiamento, di come ci si pone di fronte a queste operazioni molto complesse da affrontare. Si comincia con una pianificazione a lungo termine, poi andando a raffinare tutti i dettagli. Ma senta, davanti a lei cos'ha? Tanti computer, schiaccia dei bottoni, cosa fa? Quando comandiamo la sonda, sì, abbiamo tanti computer e schiacciamo dei bottoni, vediamo dei dati che arrivano dalla sonda e mandiamo degli ulteriori dati alla sonda. Come giocare alla PlayStation, quasi. Più o meno. Si può vedere così anche il nostro lavoro. Senta, ma problemi con i rifiuti spaziali non ne avete avuto? Avete fatto il giro del Sole, della Terra, dei pianeti, rifiuti spaziali non ne avete impattati? No, assolutamente no. Il problema grosso dei rifiuti spaziali è nelle orbite molto vicine alla Terra. Noi siamo talmente lontani nello spazio profondo, diciamo, dove la probabilità di impattare sicuramente un oggetto costruito dall'uomo è impossibile. Non è neanche concepibile. Ma i rifiuti spaziali sono solo quelli costruiti dall'uomo? Se li chiamiamo rifiuti, sì. Sì, vabbè, ma insomma ci sono invece delle piccole asteroidi, chiedo a lei. No, certo, lì non li chiamerei rifiuti. Perché in fondo chiami come vuole, ma qualcosa che uno può urtare c'è o no? La probabilità esiste, ma è infinitesima, sì. È veramente bassa, perché gli spazi sono giganteschi, la densità di questi oggetti è molto molto bassa. Però ecco, ma materialmente com'è fatta Rosetta? Che forme ha? Che dimensione ha? Rosetta è una sonda piuttosto grossa, ha un corpo centrale. Ma grossa? Cioè? Un parallelepipedo di circa 2,5 metri ogni lato e ha due grossi pannelli solari che si estendono per circa 14 metri da ogni lato. Quindi è è largo 32 metri circa il satellite. E quanto pesa? Al lancio pesava più di 3 tonnellate, più della metà erano propellente, combustibile, che abbiamo già usato quasi completamente per avvicinare la cometa. Adesso che siamo in prossimità della cometa ne usiamo pochissimo e pesa circa una tonnellata e mezza, un po' di meno. Ecco, dottor Ferri, ma qual è stato il costo della missione? Ma una missione che costa un po' più di 1 miliardo di euro, adesso calcoliamo circa 1,2 miliardi. Pagati da chi? L'ESA principalmente è un'organizzazione pagata finanziata da 20 nazioni europee, sì. L'Italia fa una parte importante, ci sono 4 grandi nazioni, Italia, Germania, Francia e Inghilterra, i quali forniscono la maggior parte dei fondi, però sono 20 nazioni che forniscono tutti questi soldi alla fine. Ecco, dottor Accomazzo, ma come avverrà l'atterraggio sulla cometa? Noi ora siamo con la sonda principale, con Rosetta, intorno alla cometa, stiamo orbitando la cometa, sì. E ci avvicineremo al punto da poter rilasciare la sonda secondaria, questo lander che si chiama File, il quale verrà lasciato in una direzione che andrà ad impattare la cometa. La velocità di impatto è estremamente bassa, quindi l'intenzione è di fare un accometaggio, un atterraggio soft, nel senso che... Ecco, ma estremamente bassa vuol dire che atterra a che velocità? Circa 1 metro al secondo, quindi la velocità di una persona che cammina. Ah, quindi potrebbe non rompersi. Beh, l'intenzione è assolutamente quella. Ecco, ma che tipo di informazione da quel momento in poi vi aspettate? La grossa parte scientifica della missione è a bordo di Rosetta, della sonda principale. Ah. Il lander, una volta sulla superficie, permetterà di analizzare in loco, in situ, alcune caratteristiche che non riusciamo a vedere dagli strumenti che sono in orbita sulla sonda principale, e permetterà anche di correlare i dati della sonda principale, quindi andrà a prelevare dei campioni di suolo con un trapano costruito in Italia, andrà ad analizzare questi campioni di suolo con diversi strumenti, analizzerà i gas che vengono emessi sulla superficie della cometa, quali potrebbero rilevare. Ma che sorprese potrebbero esserci? Sorprese? Beh, la prima sorpresa grossa è proprio l'atterraggio. No, naturalmente, questo è un'operazione incredibile, ma dal punto di vista dell'analisi dei materiali, che cosa potete aspettarvi di sorprendente? Sarebbe importante verificare le teorie, le speculazioni che gli strumenti di bordo della sonda hanno fatto, verificare la consistenza della superficie, verificare la presenza in superficie o meno di ghiaccio, d'acqua e di altri elementi. Cioè di vita possibile, quindi, in qualche modo. Di vita possibile, non sono uno scienziato, ma lo ritengo estremamente improbabile, però si pensa di riuscire magari a trovare elementi primordiali che poi possono essere i costituenti della vita. Senta, ma quante persone sono coinvolte nella missione lì nella vostra base in Germania? Attualmente qua nel centro di controllo siamo circa 70 persone coinvolte, poi abbiamo un centro di supporto in Spagna che coordina le operazioni scientifiche degli strumenti e sono un'altra circa 30 persone, quindi dentro l'ESA siamo circa 100 persone coinvolte, più tutti gli scienziati sono coinvolti nell'utilizzo degli strumenti. Ecco, dottor Ferri, un'ultima cosa, il 12 novembre nella vostra base in Germania sarete, immagino tutti, col fiato sospeso. Quale dovrebbe essere il segnale della buona riuscita della missione? Diciamo, abbiamo due cose che per noi sono molto importanti, che devono riuscire. Prima di tutto dobbiamo essere sicuri di mettere questo lander, di farlo atterrare, farlo atterrare sulla cometa. E quello, il segnale che ci arriva è il segnale che abbiamo tutte l'accuratezza necessaria nella nostra navigazione, è sufficiente per sganciare questo segnale. Una volta che abbiamo quello, sganciare questo lander, una volta che abbiamo raggiunto quello, sappiamo che il lander arriverà prima o poi sulla cometa. Il secondo punto è quando tocca la superficie. Noi abbiamo un contatto radio tra il file e Rosetta, e poi Rosetta manda i dati direttamente sulla Terra. Quindi quando vedremo vari dati che il computer di bordo di file trasmette a Rosetta e dice ho toccato, quello sarà il momento in cui sappiamo che non solo è arrivato sulla superficie ma anche è sopravvissuto, e quella sarà sicuramente il momento più importante. Ecco, ma da questa avventura clamorosa si possono immaginare, parlo da vero ignorante, immaginare delle conseguenze del fallout per la ricerca e per anche le industrie? Ma sicuramente per Rosetta sono state sviluppate tecnologie sia nella parte della sonda sia nella parte degli strumenti che erano all'avanguardia 10 anni fa e lo sono tuttora. Per esempio le celle solari di Rosetta sono state uno sviluppo particolare, dovevano funzionare a basse temperature, a bassa intensità e avere una grande efficienza. E oggi sono già utilizzate in impiego comune? Non le stesse celle, ma la tecnologia che è servita a svilupparle ha contribuito poi a sviluppi di celle che vengono usate attualmente sulla Terra. Bene, grazie. Mix 24. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place where my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Pietrangelo, eccomi. Eccoci, è questa? È questa perché per tutte le volte che ci si incammina nel silenzio, in quelle volte quando capita l'incontro più impegnativo, quello con se stessi, e ci si ritrova nei luoghi che possono essere anche lontani, estranei, eppure intimi, immersi nel tepore di un addio che non dismette mai il ricordo di un abbraccio, un sorriso, e quel silenzio, quella grande solitudine, diventa un roco sussurro che è questa canzone da ascoltare con le mani in tasca, tenendo in custodia da Dio. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. Mario, si vede che gli manchiamo, strange, sì, no? È diventato crepuscolare. Mario, nella tua pentola cosa bolle? La realtà, la realtà. Bella, bellissima. In Giappone è fantastica. Non mi ricordo di che anno è, devo guardare adesso. Vabbè, Japan is back, il Giappone è tornato. Tu sai che io controllo sempre che cosa fa il nostro amico Shinzo. Assolutamente. È molto importante perché la produzione industriale giapponese in settembre è schizzata di nuovo al 2,7 rispetto all'1,9% del mese precedente. Che cosa vuol dire? Che c'è una ripresa robusta? Ma il Giappone è un esperimento, è un mix di risultati. Vediamo i dati di ottobre e poi capiremo un po' meglio la tendenza. I dati sono ancora molto fluttuanti. L'esperimento della Abenomics però è molto importante per la crescita mondiale. Influenza ovviamente perché tutte le mosse anche delle altre banche centrali, certo. In qualche maniera la banca centrale del Giappone, sapete tutti, ha in questo momento una linea di politica ultra espansiva e oggi, a proposito di espansione, oggi la Federal Reserve dovrebbe dare insomma un segnale, cioè una riunione di due giorni, si capirà se quello che si chiama tecnicamente il quantitative easing verrà confermato oppure no. Secondo me un po' i mercati l'hanno già assorbito. Il vero tema riguarda sempre la crescita europea, no? Che è ferma. Quando si ferma la Germania poi si ferma tutto, quindi i dati tedeschi sono quelli più importanti. C'è una segnalazione importante dalla regia, Big in Japan è dell'anno 84, quindi perfetto. Eravamo piccoli. Avanti con le bolle. Pensa alla grande, sii ottimista, non dare mai segni di debolezza, mira sempre dritto alla gola, compra poco e vendi a molto. La paura è un problema che non ti riguarda. La paura è un problema che non ti riguarda, questa era una poltrona per due, film molto divertente. Però, insomma, anche se non hai paura, poi alla fine puoi perdere. E stavolta è interessante l'altro dato, abbiamo citato la Germania e ci andiamo a questo punto, perché Deutsche Bank, colosso della politica economica tedesca, come sapete tutti, ha riportato perdite un po' sorprendenti, ma non troppo per chi guarda queste cose da vicino, nel terzo trimestre per 120 milioni di dollari. Sono una novantina. E perché? Perché cause legali. Cioè, 120 milioni di cause legali? No, di più, molto di più. Sono cause che possono avere un impatto esatto di quella magnitudine. E uno è per l'inchiesta sulla manipolazione dell'IBOR e l'altra è l'indagine sulla vendita dei mutui negli Stati Uniti. Quindi, insomma, riemergono tutti i problemi degli anni del grande sviluppo in cui si sono mossi un po'. Tutta una bolla. Una grande bolla. E andiamo col salamino. Trattasi di Zecche e Salamini, il Papa Unido Yamasa Ravensido, il Papa gli Indignados. Allora, economia, globalizzazione e tra poco anche George Soros, giusto per non farsi mancare nulla. Il Papa regnante incontra i movimenti, ruba il mestiere al subcomandante, a Laura Boldrini, a Gigi De Magistris, a Luca Casarini e invita in Vaticano il centro sociale Leon Cavallo. Lo fa evidentemente per smentire una diceria. Mi dicono, dice, questo Papa è comunista, ma è la dottrina della Chiesa. Sarà così. Il Santo Padre, in versione leonca, piace vieppiù alla gente che piace. Indiscrezioni riferiscono della sua prossima candidatura al premio Strega. Quindi farà un'enciclica a sostegno di servizio pubblico, la trasmissione di impegno di Michele Santoro, un po' in difficoltà, poi un intervento deciso affinché Renzi ascolti i sindacati e infine la celebrazione della Santa Messa nella piazzetta di Capalbio e la mobilitazione del clero tutto per chiedere luce sulle ombre derivate dalle trame di Stato. Insomma, anche la santità di per sé viene contestualizzata in un più ampio quadro che valorizzi l'impegno sociale e la legalità. E per dirla con Magritte, questo non è un papa, questo è Dario Fo, è il rito liturgico e questo. Cosa aspettate? A battergli le mani? Ma che aspettate a batterci le mani? A mettere le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone. Guarda che il Papa ha solo detto che Gesù stava con gli ultimi, che quello è il Vangelo. Sara! E lo come, è il mio cavallo! Sapore di mare, un gusto un po' amaro, di cose perdute, di cose lasciate. C'era una volta una spiaggia in un piccolo borgo di pescatori ed era così bella che faceva innamorare. Era in Sicilia, San Gregorio. La conoscevano in pochi, ma poi all'improvviso è diventata famosa perché Gino Paoli le ha dedicato Sapore di sale. Bene, non esiste più. Pluff, sparita, spazzata via dal mare che di fronte alla cementificazione selvaggia, alle cartacce schifose abbandonate dai bagnanti, agli interventi ambientali senza senso, si è ribellato. Sì, il mare si è rotto le palle, si è ripreso la sua spiaggia, stufo di noi uomini e della nostra violenza di fronte alla bellezza. Solo in mezzo al mare, è profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventa un tamburo. Ecologa e romantica la nostra Sara. Pubblicità. Mix 24. Pietrangelo canzoniere. Che tu sei traforata a guisa dei paternostri, come crede un fisico moderno, che sei fatta, come affermano alcuni inglesi, di cacio fresco, che Maometto un giorno o una notte che fosse ti spartì per mezzo come un cocomero e che un buon tocco del tuo corpo gli sdrucciolò dentro alla manica. Come stai volentieri in cima dei minareti? 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Colgo l'occasione di dare il numero verde, l'SMS, per dire che ai tanti che ci scrivono o per insultarci o per farci complimenti, per avere la lettura del proprio SMS è indispensabile firmarsi. Bolla! Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Saint Creek. È un bellissimo pezzo di De André, fiume Saint Creek, c'è la guerra, no? Certo. Le stragi sono quelle degli innocenti. Com'è bene? Turchia, Siria, c'è una grande partita in corso, i media se ne sono già un po' dimenticati, a dire il vero, è finita tra le cose appunto dimenticate, tanto non è vicina, si dice, poveri illusi europei se pensano questo. E in realtà è in corso una battaglia da 40 giorni e sono arrivati ieri notte, questa potrebbe essere una buona notizia, i primi rinforzi di truppe curdo irachene. Gli scontri tra milizie di ISIS e gli iracheni però sono diffusi in tutto il paese, quindi vediamo se questi rinforzi riescono, diciamo così, a dare una mano alla resistenza. Ma tu che previsione fai lì? È un disastro. Un disastro? Sì, perché i raid aerei hanno rallentato la marcia di ISIS, ma non l'hanno fermata. Perché i raid aerei non possono risolvere il problema. No, e infatti stanno arrivando truppe di terra di vario tipo. Nessun reporter è dentro Kobane, quindi si ha solo l'informazione che così è figlia della propaganda. Esatto, quando qualcuno riuscirà a entrare, secondo me, scopriremo un disastro. colossale, come già avvenuto in altre città prese dalle milizie sunnite di ISIS. Abbiamo grandi responsabilità, l'Europa sicuro, ne abbiamo parlato in tutti i modi in questi giorni. Intanto una buona notizia, Giuliano da Bergamo ci dice grazie per l'informazione che ricorda la guida italiana del progetto Rosetta, cioè italiani seri nel mondo che in qualche modo salvano la nostra immagine. In realtà è un discorso che noi cerchiamo di fare con continuità, perché raccontare tutti gli italiani che ce la fanno, ma ce la fanno con intelligenza, con impegno, è un nostro... È pieno di gente in gamba in giro per il mondo. Pienissimo. Ieri ero a Torino, tua città, con la Fondazione Italia Giappone. C'è della gente in giro in Asia, bravissima, che fa affari. Infatti, italiani che fanno. E porta il nostro stile, le nostre immagini ovunque. Lorelai da Torino, Lorelai. Sì, buongiorno, salve. Buongiorno. Allora, buongiorno. Ha indovinato il nostro canzoniere? Credo di sì, sì. Dica. Dialogo della Terra e della Luna di Giacomo Leopardi. È giusto, ha vinto. Ha vinto il Feltrinelli. Signora, cosa fa a Torino lei di bello? E in questo momento faccio la mamma a tempo pieno perché ho tre bambini. Ah, quindi... che meraviglia. Grazie. Sono qui in casa che ascoltavo appunto... il vostro programma come tutte le mattine. Allora, addirittura sentito... che dice? Ci ascolta come? Tutte le mattine? Beh, ci incoraggia allora. Sì, vi ascolto tutte le mattine mentre faccio le mie cose così in casa, sono sempre lì ad ascoltarvi e siete di buona compagnia e sempre argomenti molto interessanti. Beh, grazie signora, molto gentile. Il bonus bebè, lei no, vabbè, un po' tardi, se l'ha già fatti i tre tardi, bambini. Un po' tardi, purtroppo. Può fare anche poco. Grazie signora. Allora, grazie a voi. Il 29 ottobre del 29, dopo molti mesi di euforia, i listini di Wall Street crollano, perché raccontiamo questa storia. Mi sono sbagliato all'inizio, avevo annunciato la storia del Krupp che racconteremo domani, molto interessante anche quella. Dicevo, crollano i listini di Wall Street e l'America entra nell'incubo della Grande Depressione. Ecco, dopo il giornale radio con Marina Milone, come sempre raccontiamo il crack finanziario del 29. Intanto ascoltiamo cosa si è detto Giulio Tremonti, un piccolo brano dell'intervista che andrà alla fine della trasmissione. Io penso che la crisi prima o poi finisce, ma non finisce l'insegnamento che viene fuori. Primo, che conta la finanza, ma conta soprattutto il lavoro. Secondo, che contano gli interessi materiali, i valori della politica, i valori spirituali, contano più dei valori materiali. Per fare andare bene l'economia devi avere una visione più generale, non l'egoismo particolare. Quando lei dice che la globalizzazione è stata preparata, lo dice, da illuminati e messa in atto da fanatici della ricerca del paradiso terrestre, a chi pensa? Ma tutta quella cultura, quella ideologia... per cui se eri un banchiere diventavi uno statista, se eri un banchiere statista andavi in giro come un padre della patria. L'idea che l'economia sapeva e poteva tutto, abbiamo visto nel 29 idolatrati i banchieri, signori, esatto. È capitata la stessa cosa, dice. Diciamo che caduto il muro di Berlino si è attivata una cascata di forze, di fenomeni molto complicata e devo dire di idee, di interessi, di mondi che si confrontavano. Non potevi fermare tutto questo, ma potevi farlo in tempi più lunghi e più saggi. Ecco. Ancora Anna Murchio che ci ringrazia per aver ricordato Rosetta. Ricordo che subito dopo il giornale radio con Marina Milone racconteremo appunto la storia del crack del 29. E finiamo con la nostra canzone. E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante e quasi sempre dietro la collina.